Biblioteche, ultima frontiera. Inchiesta sui presidi culturali nelle periferie. Il problema dei problemi è il fatto che in Italia ci siano pochi lettori, cioè ci siano percentuali di lettura, per esempio nel tempo libero soprattutto, molto ma molto più basse rispetto ad altri paesi europei, e questo è il problema fondamentale, ovvero un mercato piccolo. Poi se guardiamo nel dettaglio queste percentuali, nel 2016 la media italiana era del 40,5% delle persone che leggono anche nel tempo libero, contro non so, il 62 della Spagna, il 68 della Germania, il 90 della Norvegia. E poi guardando questo 40,5%, all'interno di questo ci sono poi segmenti di lettori diversi, ovvero lettori deboli, ovvero che leggono da 1 a 3 libri l'anno nel tempo libero, lettori medi e lettori forti. E i lettori forti rappresentano una piccola parte della popolazione, ma determinano il 30% degli acquisti di libri. Dunque i ricavi del mercato editoriale sono generati da una bassissima percentuale della popolazione. Come ci ha spiegato l'economista Chiara Bernardi, autrice del libro Le biblioteche e il mercato del libro, analisi del settore e prospettive di sviluppo, la frase che sentiamo spesso sugli italiani che leggono troppo poco è drammaticamente vera, e ciò non è un bene né per il mercato editoriale, ma soprattutto per l'intelligenza collettiva del nostro paese. Non è un caso se, secondo un rapporto OCSE del 2016, il 27,9% della popolazione italiana soffre di analfabetismo funzionale, cioè pur sapendo leggere non comprende un testo di media difficoltà e non sa usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Non stupiamoci quindi se la diffusione delle fake news è così virale. Dopo aver scoperto la storia altalenante e travagliata delle biblioteche in Italia, seppur con picchi avanguardistici come quello dell'amministrazione Zanardi all'inizio del Novecento, dove la cultura e l'istruzione venivano individuati come strumenti di emancipazione sociale, andiamo a scoprire quali sono i problemi e le conseguenze dell'incultura. Un dato molto indicativo è quello della dispersione scolastica, perché essa in molti casi segna il destino sociale, lavorativo ed economico di chi abbandona gli studi e spiega il perpetrarsi delle disuguaglianze. La media italiana registra un tasso di dispersione scolastica del 13,8%, un dato che nell'ultimo decennio si è dimezzato, ma che non è ancora sceso sotto la soglia del 10% indicata a livello europeo. Persino in regioni avanzate come l'Emilia-Romagna le cose non vanno molto bene. Lungo la via Emilia, infatti, la dispersione scolastica è all'11,3%. Questo cosa significa? Ce lo spiega Arianna Saulino di Save the Children. C'è un problema ovviamente anche rispetto alla dispersione scolastica e anche rispetto a quelle che sono, poi abbiamo verificato, quelle che sono per esempio le bucciature, cioè non essere ammesse al successivo anno delle scuole medie, che è una percentuale che chiaramente varia da regione a regione, da provincia a provincia, sono delle differenze anche in Emilia Romagna. Per esempio, i non ammessi al successivo anno delle scuole medie si passa dall'1,2% di Rimini al 3,6% di Ferrara, la media nazionale è il 2,9% per esempio. Rispetto invece alle superiori, la media nazionale è del 9,15%, e c'è però una grossa differenza, questo va precisato, tra quelli che sono i licei e gli istituti invece professionali. E in questo caso vediamo che il numero di bocciati alle scuole secondarie di secondo grado è un 7,7% a Ferrara e passa al 12,8% di Reggio Emilia. In Piacenza devo dire che ha uno dei tassi più alti invece in Italia rispetto agli istituti professionali, perché siamo intorno al quasi al 19%. Secondo le analisi c'è un legame tra insuccesso scolastico e povertà. Sappiamo che i minori in situazioni di povertà, in povertà assoluta in particolare, sono cresciuti negli ultimi anni e sono arrivati a oltre 1.200.000 in Italia. Sono minori che vivono in tutto il paese, quindi in realtà anche nel nord e anche in Emilia Romagna. In Emilia Romagna la percentuale è del 13,7%, quindi comunque una percentuale importante che va tenuta in considerazione. Ovviamente i minori che vivono in queste famiglie con un disagio economico molto forte sono anche coloro che sono più a rischio di povertà educativa, quindi di poter usufruire di meno di quello che è la possibilità non solo che offre la scuola, ma anche tutto il sistema extrascolastico. Le conseguenze della povertà materiale ed educativa sono una spirale che si avvita e che rischia di segnare il destino di molti ragazzi. Quando i minori si trovano in una condizione socio-economica svantaggiata hanno risultati peggiori anche in quelli che sono i famosi test PISA, quindi sia nella lettura che in matematica. E la cosa interessante che abbiamo poi analizzato mettendo in relazione i dati è appunto che c'è anche una connessione tra quello che sono le loro attività puramente extrascolastiche, quindi per esempio la possibilità di usufruire di uno sport in maniera continuativa, che ha un effetto sempre per i minori che appartengono a queste fasce, diciamo, della popolazione, un effetto positivo anche sul loro rendimento scolastico. L'Atlante dell'infanzia di Save the Children ci fornisce già informazioni importanti sull'indice di povertà educativa, che non riguarda solo la scuola, ma anche le altre agenzie culturali presenti in un territorio, come cinema, teatri e biblioteche. Se incrociamo questo rapporto con i risultati delle statistiche ISTAT nati dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, indagine fatta anche su Bologna, scopriamo anzitutto che povertà educativa e le povertà materiali viaggiano di pari passo e che si accentuano in zone urbane abbandonate come le periferie. Se prendiamo ad esempio in considerazione l'indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria di primo grado, scopriamo che i giovani che hanno abbandonato gli studi risiedono soprattutto in zone come il Pilastro, la Barca, la zona dell'aeroporto, la Pescarola e la Bolognina. Nelle stesse zone il tasso di disoccupazione, sia generale che giovanile, è più alto della media ed è di conseguenza più alta l'incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico. Per contro, in quelle zone è più basso l'indice degli addetti ad attività creative e culturali sulla popolazione servita. Noi operiamo in molte realtà italiane, in diverse regioni, in quelle che sono le periferie, in quartieri periferici, dove ovviamente ci sono meno possibilità per i ragazzi, soprattutto in termini non scolastici, di poter usufruire appunto di quello che è anche il nostro patrimonio artistico, culturale, ma anche la possibilità di accedere, di leggere libri, di essere connessi in maniera, maniera qualificata rispetto ad internet. Thank you. presenza di presidi culturali, dunque, risulta fondamentale per fornire punti di riferimento, ma anche strumenti per l'emancipazione sociale. Ed è per questo che le biblioteche rappresentano spesso l'ultima frontiera, l'estremo argine alla miseria e all'abbandono. Anzi, le biblioteche possono diventare l'arma vincente per il rilancio di luoghi con storie negative e possono cambiare radicalmente la narrazione di un territorio, come sta accadendo a Scampia, quartiere napoletano diventato famoso per la camorra, in cui è nata l'Officina delle Culture Gelsomina Verde, voluta fortemente da attivisti antimafia come Ciro Corona. Il progetto della Biblioteca di Scampia si inserisce all'interno di un progetto molto più grande, che è quello della ristrutturazione, valorizzazione e gestione dell'Officina delle Culture. Questo ex istituto scolastico, prima abbandonato, poi di cui la camorra se n'era impossessato, e grazie a una sinergia tra forze dell'ordine e attuale amministrazione siamo riusciti ad ottenere le chiavi di questa struttura, che intanto era stata vandalizzata. Per 5 anni ne abbiamo fatto richiesta alla vecchia amministrazione, non abbiamo mai avuto la possibilità di entrarci, e nonostante la camorra, insomma, prima ci nascondesse le armi e poi ci ha fatto un vero e proprio bed and breakfast della camorra, quindi metteva a riposare i tossicodipendenti dopo aver venduto eroina. Ci abbiamo messo 2 anni per bonificarla, 45 bidoni di siping e 12 camion della spazzatura, insomma, sangue, vomito e escrementi ovunque. E questa struttura oggi è per 3/4 ristrutturata senza fondi pubblici, quindi grazie a sponsorizzazioni, grazie agli utili della vendita dei prodotti del bene confiscato del Fondo Amato Lamberti. In realtà questa iniziativa si inserisce a pieno titolo in questo grande progetto, perché siamo sempre stati convinti che cultura e lavoro sono le armi di riscatto dei nostri territori. La cultura, contrariamente a quanto qualcuno diceva qualche anno fa, che con la cultura non si vive, noi abbiamo provato insieme al mondo dell'editoria, ci sono stati accanto, hanno fortemente voluto questa biblioteca all'interno di quelle officine delle culture. È stata una biblioteca che porterà lavoro, paradossalmente rispetto a quello che dicevo prima, no? Che qualcuno qualche anno fa ha detto che con la cultura non si vive. Le scaffalature, quindi l'intera costruzione della biblioteca, si data ai detenuti che abbiamo nell'officina delle culture. Attualmente ce ne sono 10 in affidamento al lavoro, quindi vengono la mattina, lasciano il carcere, vengono qui e poi tornano in carcere il pomeriggio e qualcuno torna ai domiciliari. Quindi loro stanno costruendo la biblioteca, loro stanno ristrutturando la sala a lettura e lo stanno facendo insieme agli artigiani che fanno parte del polo delle associazioni dell'Officina delle Culture. In più, una persona del quartiere si sta formando e sarà la bibliotecaria, l'addetta all'accoglienza del pubblico, per 2 anni. Quindi la cultura, che in questo caso porta lavoro direttamente sui territori, quindi un lavoro che cade sui territori, di cui ovviamente ne soffriscono sia le classi svantaggiate che le persone del territorio. Ma chi era Gelsomina Verde, la persona che dà il nome al progetto di Scampia? Innanzitutto ci piaceva l'idea che una fabbrica di morte potesse diventare poi Officina delle Culture, no? Quello che era il simbolo di Gomorra, laddove si generava morte, oggi genera vita, si genera cultura. La si è intitolata Gelsomina Verde, una vittima innocente di quasi di Camorra, la 114esima vittima della faida di Scampia, una ragazza di 21 anni che con la Camorra non c'entrava nulla, ma la sua unica colpa è stata quella di concedersi lusso di fidanzarsi qualche anno prima con una persona che poi si è schierata col clan degli scissionisti, nonostante le loro vite si fossero già separate da tempo, le loro strade si erano divise. I di Lauro chiedono a Gelsomina dove si nascondesse l'ex fidanzato, e lei non solo non sapeva rispondere, ma si concesse il lusso di dire che seppur lo avesse saputo non gliel'avrebbe detto, perché non voleva essere complice di un omicidio. E l'hanno seviziata, torturata e spezzandole le ossa, le dita delle mani, dei polsi, delle ginocchia, insomma, e le caviglie, e poi l'hanno sparata e incendiata in macchina. Quindi, insomma, una ragazza del quartiere che con la camorra non c'entrava nulla, poteva essere tranquillamente mia sorella, mia cugina, insomma, poteva essere chiunque di noi, che si è trovata in questa triste situazione. L'idea che di fronte all'Officina delle Culture da sempre c'è la famigerata piazza di spaccio delle case di Buschi, che nonostante siano state chiuse tutte le altre piazze di spaccio, è una piazza che continua a resistere, non ha mai chiuso. E allora l'idea che il volto di Gelsomina, perché all'ingresso c'è una gigantografia di Gelsomina all'ingresso dell'officina, il volto di Gelsomina possa col suo sorriso, insomma, essere una pugnalata nel fianco, perché ogni giorno continua a lavorare su quella piazza di spaccio, e a noi è una cosa, insomma, che non ci fa dormire la notte. Il progetto ha saputo raggruppare attorno a sé una vera e propria comunità. Teniamo presente che all'interno dell'officina, come dicevo prima, ci sono già 13 realtà, no? Da una scuola di musica con sala prove e sala incisione, a dei percorsi di fitness con 150 mamme del quartiere che vengono 3 giorni a settimana qui a fare pilates, insomma, e attività sportive varie. C'è un dopo scuola con 45 ragazzini che vengono a fare dopo scuola, quindi parte del territorio è già presente, l'officina vive l'officina delle culture. Quando si lavora con i bambini e con le mamme, insomma, significa che si è riuscita a tirare dentro tutta la famiglia, quindi noi ci aspettiamo, insomma, una bella risposta da parte del territorio, e non solo il territorio, già ci sono grandi nomi, grandi scrittori, insomma, grandi giornalisti che ci sono accanto, che vogliono aiutarci in questa cosa e ci aiuteranno a promuoverla. Quindi io mi auguro che, come tutte le attività che abbiamo lanciato qui dentro, sia poi l'attività fosse più vissuta dal territorio, anche in prospettiva dell'apertura dell'università, che si dovrebbe aprire, insomma, si dovrebbe aprire già l'anno scorso, ma dovrebbe essere completata la facoltà di medicina e scienze dell'alimentazione della Federico II, quindi per noi significa voltare pagina nella storia del quartiere. La cultura, dunque, è uno strumento di riscatto sociale. Con la cultura e il lavoro sono armi di riscatto, non di scampiano, del nostro territorio, e se qualcuno vuole mettere un freno a tutto questo, noi invece, insomma, dal basso, la storia ha sempre raccontato che con la cultura, insomma, si sono spostate veramente le montagne. Non sono grandi centri, non vengono pubblicizzate con campagne di marketing aggressive, eppure le biblioteche sanno attirare a sé significative fette della popolazione e sanno stimolare la partecipazione, specialmente se quei luoghi, diventati punto di riferimento, rischiano la chiusura o vengono chiusi. È accaduto ad esempio a Imperia, dove un gruppo di cittadini ha difeso una biblioteca che era stata chiusa, come ci racconta Lilia Lampi, una delle anime di questa battaglia. La biblioteca intanto è la Biblioteca Civica di Imperia ed è una biblioteca inaugurata in una nuova sede, direi una cornice bellissima, la sede del vecchio tribunale, appena 7 anni prima. Ha dovuto chiudere sicuramente per l'inadeguatezza dei sistemi di sicurezza, ma la storia è particolare in quanto le raccomandazioni del comando dei vigili del fuoco venivano inoltrate all'amministrazione comunale ogni anno. L'amministrazione precedente, quella attuale, non avevano mai ottemperato alle richieste del comando dei vigili del fuoco e pertanto ha dovuto chiudere forzatamente il 6 aprile scorso. La situazione era grave per noi cittadini perché aveva già chiuso per le stesse motivazioni il teatro comunale e il centro culturale polivalente sempre del comune di Imperia e per i quali non c'è stata una mobilitazione dei cittadini. C'è stata disperazione da parte degli utenti, degli studenti che usufruivano delle sale della biblioteca, c'erano iniziative culturali, mostre con cadenza quindicinale, una biblioteca che era un centro culturale importantissimo, diciamo che rischiava di chiudere per un tempo non precisato. Inizialmente l'amministrazione comunale addirittura parlava di uno stanziamento di 200.000 euro per i lavori. Com'è avvenuta la mobilitazione dei cittadini? Noi abbiamo iniziato questa mobilitazione per accendere i riflettori su questa vicenda e ogni sabato abbiamo fatto dei sit-in vicino allo sportello del prestito che era stato ospitato da altri uffici comunali in 2 stanzette, immaginatevi una biblioteca che occupava 3 piani di un fabbricato ridotta al prestito in un ufficetto di 20 metri quadrati. Con queste mobilitazioni continuate ininterrottamente dal 6 maggio fino a luglio e poi diciamo sospese un po' per il periodo estivo, riprese tra settembre e ottobre, siamo riusciti a portare l'agenda delle attività comunali sempre su questo tema della necessaria riapertura. 2000 cittadini hanno tra l'altro sottoscritto una petizione proprio per la riapertura urgente della biblioteca. Una battaglia che ha dato i suoi frutti. Guarda caso sono stati trovati i soldi per effettuare i lavori urgenti di adeguamento, quindi solo recentemente il 26 ottobre la biblioteca ha potuto riaprire. In realtà erano lavori non così impegnativi. In un primo tempo l'amministrazione in realtà ha detto che non aveva disponibilità di denaro per fare questi lavori. A nostro avviso, siccome gli organi di stampa locali riproponevano ogni settimana questa mobilitazione e impedivano che tutto finisse nel dimenticatoio. E a questo punto l'amministrazione comunale non ha potuto che riconoscere l'urgenza della riapertura, cosa che in un primo tempo non era stata così netta e chiara. La battaglia per la riapertura della biblioteca ha fatto scoprire agli stessi cittadini di essere parte di una comunità. I cittadini erano veramente persone diverse, diversissime. Noi abbiamo fatto amicizia con alcuni conosciuti proprio durante la mobilitazione e andavano dal parrucchiere della zona alla professoressa, all'intellettuale, al cittadino comune che aveva bisogno di libri da leggere e agli studenti. Cioè abbiamo capito anche noi quanto fosse importante la vita intorno alla biblioteca, come non si riducesse al semplice prestito di libri e basta, ecco. La biblioteca dunque non è solo un servizio pubblico di prestito libri, ma un vero e proprio punto di riferimento. Noi avevamo contattato persone che avevano bisogno degli audiolibri, persone non vedenti che quindi usufruivano dei servizi della biblioteca per quello, altri che accedevano a internet attraverso la biblioteca, le mamme prima dell'estate dicevano che erano obbligate quest'anno a comprare i libri da leggere per i loro figli, mentre le altre estati li prendevano in prestito dalla biblioteca, i libri per i compiti estivi. Un importante momento di sensibilizzazione su un ruolo che svolge normalmente una biblioteca con le scuole, con i bambini delle scuole primarie, elementari e livelli anche universitari, perché naturalmente anche loro usufruiscono dei libri, i ricercatori, gli artisti che esponevano nelle sale della biblioteca, veramente un mondo, un universo che di cui non sospettavamo, ecco, fino in fondo nemmeno noi.